Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Io credo che una sigla del genere nessuna emittente ce l'abbia mai avuta. Buonasera da Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino Spolaola a tenervi compagnia questa sera carnevalesca con Maurizio, ovviamente. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. E soprattutto una serata questa di giovedì 3 marzo particolarissima, perché abbiamo pensato di festeggiare appunto questo carnevale con degli amici. Valentina, sei un splendore. Grazie. Adesso, ciao a tutti. Adesso comunque li presentiamo tutti. Allora, Blu Radio Veneto, dicevo, Agostino Spolaora e Maurizio Calzavara a tenervi compagnia fino alle 22.30. Vi ricordo le nostre frequenze, sono 88 e 700 MHz e 94 e 600. Vi ricordo il nostro sito, che è www.bluradioveneto.it, e se ci volete chiamare, il numero telefonico è lo 049 875 6423, se qualcuno ci volesse raggiungere qui in studio. Vi ricordo che potete ascoltarci anche in streaming audio, andando appunto nel sito di questa emittente, cioè www.bluradiovaneto.it. C'è un rettangolino rosa con scritto streaming, è facilissimo, sotto c'è una freccia nera piccolina sulla sinistra, cliccate lì e ci sentite in diretta 24 ore su 24. Questa sera però vi invito ancora di più ad aprire le webcam, sempre andando sul sito diretta rockwave.tk, e lì potete vedere i nostri splendidi ospiti truccati, vestiti da carnevale, con parrucche eccetera. Anche Maurizio è uno splendore. Ringrazio la Chiara che ci ha mascherati tutti stasera. La Chiara è presente e poi farà le fotografie. Sei bellissimo Maurizio, questa sera sei bellissimo. Lasciamo perdere. Okay. Allora, buonasera a tutti, dicevo, buonasera. Comincio da te Valentina, che ci conosciamo ormai da tempo, giusto? Da un bel po', esatto. Ciao, come stai? Benvenuta. Bene, grazie. Grazie per averci ospitato. Siamo qua contentissimi ed emozionati. Poi abbiamo Raffaele Tomeo, ovviamente. Da quest'altra parte del tavolo, pronto nella sezione strumentale. Strumentale, ciao Raffaele, ciao anche a te. Abbiamo Arianna. Sì, ciao a tutti. E Cristiano. Cristiano, ciao. Che sono due componenti, ex componenti di un gruppo cover cartoni animati. Che si chiamano? Si chiamavano Watà. Watà, bellissimo. Invece la Valentina, forse qualcuno la conoscerà. Io sapete che sono di parte e devo sviolinarmi un po'. Esatto. Ma è una corista dei Summertime. Quindi la sentiremo anche da solista questa sera. Allora, benvenuti. Grazie. Grazie. Maurizio. I nostri ascoltori hanno sentito una cosa molto bella. Hendrix che si accompagna al carnevale. Hendrix o quasi Hendrix, ecco. Che si accompagnava al carnevale. Andiamo qua. Più che altro Jimi Hendrix. Sai, proprio una maschera hendrixiana, sì, possiamo dire. I capelli. L'intento era quello. Ti è venuta bene la cotonatura. Esatto. In ogni caso sarà una serata molto divertente, i nostri ospiti canteranno e suoneranno tanti motivi dei cartoni animati e noi faremo da corollario, vero Agostino? Certo, cercheremo di regalare un po' di sorriso in questa giornata, tra l'altro anche non molto belle, visto cosa è successo, insomma, di trovamento eccetera eccetera, e quello che sta succedendo anche non in Italia. E quindi cercheremo di dare un po' di brio, di allegria con questi quattro amici che sono venuti a trovarci con queste canzoni dedicate ai cartoni animati, che sono stati praticamente fedeli compagni della nostra infanzia. Io non so te, Valentina, ma io sono più vecchio. E la mia? Sì. io sono un po' più vecchio, avevo altri cartoni. Qualche annetto. So. Tutti i pomeriggi, molti pomeriggi, i grandi e i piccini che abbiamo scritto nell'introduzione allo spettacolo di stasera stavano là davanti alla televisione a vedere i cartoni animati. Purtroppo anche quelli giapponesi, assolutamente quelli giapponesi. Cosa dici? Beh, purtroppo. Purtroppo, perché c'è, il disegno giapponese non era bello come il disegno di certi altri cartoni animati. Beh, diciamo che gli autori giapponesi comunque in quasi tutti i loro cartoni animati cercavano comunque di rispecchiare un po' il taglio occidentale. Gli occhioni certo. grandi sono usciti, c'erano già al tempo, ma in pochi cartoni animati sono usciti, credo, verso la fine degli anni 80. Certo. A parte Candy, insomma, sì, Giorgi, che avevano questi due... Okay. Perle così grandi. Sì, volevano non imitare, volevano avvicinarsi al famoso disegno della Disney, chiaramente, però le cose sono un po' diverse. Sì, sono due stili comunque diversi. Sono due stili assolutamente diversi. Sì, però sì. Ha avuto un grande successo il cartone animato. Perché voi avete avuto l'idea di fare le cover di cartoni animati con una band? Beh, per quel che mi riguarda, io ero proprio... non conoscevo sto mondo qua. Sapevo, ho sempre cantato le sigle dei cartoni animati, io a squarciagola, sei in campeggio, cosa come da piccolo, e anche non da... tanto piccolo, tanto piccolo. Esatto, anche perché continua adesso, però insomma, mi hanno praticamente contattato tramite un amico, insomma, io un conto è cantarle, suonarle in un gruppo così, insomma, mi sembrava un po' strano, però comunque ho provato e cioè, mi sono proprio stupito che è stra divertente, infatti, esatto. E quindi riesci un po' adesso, fai fatica a toglierti da un mondo del genere. Certo, certo, poi molti forse non lo sanno, molte sigle di cartoni animati sono state scritte da musicisti di grande valore. Eh sì. Che sono sempre state sottovalutate e sono canzonette, le urli, le canti, invece sono scritte... Vince Tempera, per esempio, ne ha scritte un sacco, esatto. Con tanti nomi diversi. Sono musicisti comunque serissimi. Esattamente. E qualcuno, e per esempio anche Alex Lavolazzi degli Aree ha scritto il famoso Goldrake, l'ha scritto lui. Che maligno ha detto, perché economicamente era un po' in crisi, allora ha scritto questo. Vabbè, è sempre una bella canzone. Però era economicamente un del successo delle sigle dei cartoni animati. Certamente, quindi musicisti di grande valore che hanno scritto le sigle dei cartoni animati. Cosa dice Agostino? Io direi di ascoltare subito le loro voci e i loro strumenti. Cosa ci proponete? A proposito di Vince Tempera, esatto. Appunto, faremo un pezzo il cui testo è di Luigi Albertalli, però la musica e l'arrangiamento di Vince Tempera, Anna dai capelli rossi. Perfetto. Ok. Radio Veneto, come non l'hai mai sentito. 3, 4. Anna dai capelli rossi va, vola e va come una rondine, però un nido non ce l'ha, non ha una mamma né un papà. Anna dai capelli rossi ha 2 grammi di felicità, chiusi dentro all'anima e al mondo vuol sorridere. Che meraviglia avere un gatto che fa le fusa per me e le libellule tante lucciole intorno a me, con me. Che meraviglia sull'altalena che va leggera su giù e tanti amici stretti stretti uniti tutti intorno a me. Anna dai capelli rossi ha un cappello sulle 23 e 2 occhi limpidi e un mare di lentiggini. Anna dai capelli rossi sa che la vita è tanto dura, ma ormai Natale è prossimo e sarà bellissimo. Tu Anna dai capelli rossi va sul cala sedia dalla città, i prati verdi, alberi imparerà a conoscere, da Matteo e da Marilla avrà una casa dove dormirà ed avrà una bambola con cui parlare e ridere. Che meraviglia avere un gatto che fa le fusa per me e le libellule tante lucciole intorno a me, con me. Che meraviglia sull'altalena che va leggera su e giù e tanti amici stretti stretti uniti tutti intorno a me. Ciao ciao ciao. Non state sbagliando canale, ve lo garantisco. Questa è Blu Radio Veneto. Queste sono le frequenze di Blu Radio Veneto. Questa è la voce di Agostino con Maurizio. E quelle che avete ascoltato poc'anzi erano le voci di Valentina e di Arianna che ci cantavano Anna dai capelli rossi. Che effetto ti fa, Valentina, cantare una canzone che non è gospel? Allora, diciamo che Anna dai capelli rossi è una delle mie canzoni dei cartoni animati preferite in assoluto. Quindi non vedevo l'ora di farla e non avevo ancora mai trovato un'occasione per farlo. Ecco, me l'hai data. Grazie. Te l'ho dato. Comunque, stiamo festeggiando il carnevale, giustamente, credo, anche perché poi giovedì prossimo siamo già fuori carnevale. Quindi oggi Quaresima. E quindi oggi invece dedichiamo questa serata così folle a questo mondo dei cartoni animati. Maurizio. Questo è un pezzo che è stato un hit single, ma un hit single per tanti anni praticamente. Una volta si usavano i 45 giri, ti ricordi i 45 giri? Si usavano i 45 giri, quindi si sentiva spesso con i tipi. Diverse generazioni di ragazzi hanno sentito Anna dei capelli rossi. Eh sì. Sì, sì, beh, i 45 giri ancora adesso c'è gente che li colleziona. Io, certo. Io. Certo. Eccomi. Qua siamo infatti, un po' di due collezionisti. Infatti, di Super Gulp ce l'ho nel viniletto. È una bella cosa, sì. È un successo che continua. Eh sì, sotto sotto magari, però comunque sì, sotto. Vivo è vivo. Perché qualcuno anche si vergogna. Io sentivo Anna dei capelli rossi. Io sono grande. Però qualche volta sì, sì. C'è un altro specchio, bisogna tirare fuori, fuori. Cioè, magari in camera porta chiusa. Tra Electric Lady Lane e Anna dei capelli rossi ci può essere un collegamento, cosa dici? Sì, sì, magari un po' così. Potrebbe esserci. E il collegamento, dato che molti di questi pezzi, come abbiamo detto precedentemente, sono stati scritti da musicisti che di Hendrix si intendevano. Per citare Hendrix, perché io stasera siamo partiti con Hendrix. Sì, sì, beh, comunque musicisti di grosso calibro. È un modo anche per stare uniti e cantare assieme queste canzoncine, queste canzoni divertenti. Sì, sì, magari parti con due amici, cominci poi l'altro ti sente, alla fine urli con le vene così grosse, e te le canti tutte. Esattamente. Cosa dici, parole Agostino? Sbagliate o no? Tu che sei un esperto di queste ma cose. Ma io dico che quando usciva, secondo il mio punto di vista ovviamente, quando uscivano i cartoni animati, oh che schifo, che canzone brutta, orribile, c'era... Però poi passava il tempo, tu andavi in giro per la strada magari o anche in auto, te la canticchiavi, cioè ti restava comunque in mente. Mi viene in mente, un giro di parole, un vecchio detto, no? Che la pubblicità, così mi aggancio, la pubblicità più stupida è più resta in mente. E più o meno siamo lì come paragone, se me lo passate. Semplice. Ti resta quindi, subito, lo memorizzi subito? Lo memorizzi subito, ti resta in mente, sì, quindi più la canti, cioè più la senti, poi più ti resti in mente, sì. Più la canti ancora. Tanto per essere un po' pesantuccio, lo dice anche la psicologia, che quando ascoltiamo qualche cosa che assomiglia più a una nenia o quelle ninna nanne che si cantano ai bambini, restano più facilmente in mente, tornano alla memoria spontaneamente. E quindi per questo anche molte canzoni scritte appunto da musicisti che sapevano quello che stavano facendo, certo. Suonano un po' così, ma insomma ci sono motivi anche c'è uno che, studio sotto esatto. Che ti fanno poi accadere quello che dicevi prima tu, Ago, mentre sei in macchina, quando meno te l'aspetti ti torna alla mente, certo. Sì, non è fatto niente per caso, certe cose sono state costruite, non dico a tavolino, però sono state costruite in una certa maniera. Sì le canzoni, sì, magari essendo anche musicisti bravi hanno una botta di teoria. un bagaglio culturale, ti fanno la canzone che funziona. Poi stiamo parlando di anni anche in cui... Esatto. Si faceva non solo nelle canzoni dei cartoni animati, tutto questo. Esatto, si faceva anche altre cose c'era similari. C'era un background molto diverso. Certo, c'era un background diverso, però si facevano cose similari ai cartoni animati. Ricordo il pezzo di Morandi che è ritornato in classifica dopo tanti anni di Oblio, che lui l'ha cantata con suo figlio, come Modugno ha cantato con un ragazzetto. Cioè, questo discorso di cantare pezzi, tra virgolette, non prettamente di un certo peso, scaccia pensieri, possiamo dire così, funzionava praticamente, perché una volta si usavano i 45 giri, c'è poco da fare. Beh, si metteva nel mangia dischi, il famoso mangia dischi. Io ne avevo uno giallo. Ma da macchina? No, quello perché no, io ho sempre visto, ho sempre chiesto il mangia dischi da macchina, con le buche. Ecco, cioè saltava. saltava. Beh, se ti ricordi, Cristiano, comunque. Perché anche io i vinili a casa, i 33 giri, perché insomma, però non c'ho il giradischi in auto. No. E mi sono sempre chiesto, anche sui film, vedevi visto 45 giri sul che entrava, e no, mi sono sempre chiesto, ma se già salta un CD che è super, esatto, sì, pensi, tecnologico, se figuriamoci un vinile, non ho idea. Ma era bello anche il salto del 45 giri, portava un certo fascino. Assolutamente. Sì. Unito a qualche imprecazione per la buca, l'ammortizzatore. Ma qualche volta saltava sempre nello stesso pezzo, per lo stesso era rovinato. Era rovinato. Se state guardando le webcam e vedete una persona con una parrucca rossa... Sì, sono io, sì, purtroppo sono io. È il nostro Maurizio. Sono io. È la prima volta in 30 anni di radio quasi che mi succede una cosa simile, però è... Ringraziamo Chiara. Ringraziamo Chiara che ha avuto questa idea. Agostino, bella idea. Tu hai delle antenne a forma di gallina per cui non puoi parlare. Perché Chiara che ha l'orecchio da topolino. Chiara con l'orecchio da topolino, insomma, ragazzi... Siamo tutti conciati per le feste. Mi sembra giusto. Blu Radio Veneto, Agostino e Maurizio con Valentina, Arianna, Cristiano e Raffaele per questi cartoni animati che adesso ci fanno ascoltare. Cosa? Allora, il prossimo pezzo è tratto dal romanzo di Mark Twain, Le avventure di Huckleberry Finn, che fu trasmesso come cartone animato nel 1980 su Rai 1 per la prima volta e viene cantato dalla Louisiana Group. Louisiana Group. Esatto. Ehi, a che gym, nel cuore caldo del profondo sud. Ehi, a che gym, in barca vanno sul Mississippi. È bianco Huck e nero è Jim, ma amici per la pelle fanno tutto a metà. Mille avventure contro i caimani nelle paludi tropicali. Sabbie mobili che sbarrano la via. Ehi, a che gym, nel cuore caldo del profondo sud. Mentre cotone spunterà, mortali lotte i galli fanno già, e i piantatori fanno i predoni dove cacciavano i moicani. Lo showboat con la sua orchestra fa allegria. Ehi, a che gym, a chi richiama dicono di sì, dove la legge il più forte la fa, aiutano chi soffre, chi denaro non ha. Son con gli schiavi, stanco con i bari, sanno mai fermi con le mani, senza mai pensare a quello che accadrà. Hey, a che gym, vanno remando su Mississippi. È bianco Huck, è nero è Jim, ma amici per la pelle fanno tutto a metà. Mille avventure contro i caimani nelle paludi tropicali. Sabbie mobili che sbarrano la via. Ehi, a che gym? Ehi, a che gym? Ehi, a che gym? Io confesso, non me lo ricordo mica tantissimo questo cartone animato qua, eh. Perdonate la mia ignoranza. Malissimo perché cartone. È bello. Non discuta, però sinceramente non me lo ricordo. Dobbiamo dire una cosa su questo pezzo, due cose. Una cosa letteraria, tratto da un romanzo, e una cosa musicale. Musicalmente questo era un pezzo un po' diverso dagli altri. Avevo attinenza al blues e attinenza anche al gospel, secondo me, in alcuni momenti. Questo è proprio adesso lo possiamo analizzare un secondo. Blues spirituale è un pezzo che è proprio molto associato al tema della storia che racconta. Esattamente, quindi era molto interessante come copertura musicale, decisamente. Perché questo ragazzi, ecco, quella è bellissima. In ogni caso, il discorso... volete che lo ascoltiamo dal disco poi magari? Sì, dopo lo sentiamo. Facciamo dal questa disco. O facciamo? Sì, fatemi questo regalo. No, facciamo così. Parliamo un momento di questo pezzo. Sì, no. Mettiamo su questa qua. Okay. Esattamente. Okay. Allora, ritornando al pezzo, musicalmente è un pezzo importante, significativamente importante. Il discorso dei cartoni animati che si allacciano ai temi, alla letteratura, ai racconti, cosa ne pensate? È una cosa interessante. Assolutamente. È una cosa anche istruttiva per i ragazzi all'epoca. Cosa dici? I bambini guardano i cartoni animati ed è giusto che ci sia una morale e ci sia anche una storia. Per cui qua si parla di due amici bianco e nero in un momento in cui l'integrazione razziale era un po' quello era che un era. Po', esattamente. Ecco, e per cui io infatti sono cresciuta con questo cartone. A me piaceva tantissimo, un po' per forse la sigla, un po' per la storia. Un po' perché secondo me era molto istruttivo. Certo. Beh, chi non ha imparato la mitologia guardando Pollon? Assolutamente. Ecco, esatto. Verissimo anche questo. Anche quello. Beh, se posso dire, penso che il cartone animato abbia svolto un po' il ruolo che magari per le generazioni precedenti alla nostra, diciamo la nostra, sì, esatto. Potevano aver svolto le favole. Certo, hai ragione. Per cui contengono gli stessi precetti, gli stessi messaggi, anche gli stessi esempi magari trasformati, perché noi siamo cresciuti con i robot, ma prima c'era qualche altra figura magari mitologica o la strega cattiva, certo. Ma in realtà i personaggi rappresentano più o meno sempre gli stessi ambiti, le stesse sfaccettature dell'umanità, diciamo. Esatto, la lotta del bene contro il male. Certo, e abbinare il disegno animato alla letteratura e abbinare il disegno animato alla letteratura e alla musica sono tre posizioni, tre momenti decisamente importanti. Fa crescere nonostante tutto. Forse ha detto una parolona, però apre determinate idee, fa sentire determinate cose, determinate ricerche. E tutto sommato ci fanno anche essere un po' quello che siamo oggi. Esatto. Certamente. Cioè, quattro simpaticoni con la parrucona. Ma è bello così. Diciamo mi spiace per chi non ci può vedere. Che siamo sempre giovani. A proposito, apro una piccola parentesi, Valentina. Adesso hai detto una cosa che non è vera. Perché abbiamo appena commentato io e Chiara. Questa sera c'è veramente un sacco di gente che sta guardando le telecamere. E questo ci fa veramente molto piacere. Vi vedono tutti. Allora, io ve lo ricordo, lo streaming audio è collegandovi nel sito www.bluradioveneto.it. C'è un rettangolino rosa con scritto streaming, sotto c'è una freccia nera piccolina sulla sinistra, lì ci potete ascoltare. Mentre se volete vedere queste splendide creature maschi e femmine, bellissimo. Soprattutto la bionda e il moro. Fantastica la bionda. Splendidissime. Sono fantastico. Allora, ci sono due possibilità: o andate nel sito diretta rockwave.tk e lì vedete appunto la nostra diretta con le telecamere, oppure andando nella recensione che abbiamo fatto noi nel sito, che ha fatto Maurizio Calzavara nel sito per la presentazione di questa serata, sotto c'è scritto streaming audio e c'è scritto appunto anche streaming video. Cliccando lì entrerete nella pagina video. Quindi vi stanno vedendo, vi stanno ascoltando. E ringraziamo l'organizzazione di tutto l'evento e tutti gli eventi. L'ha organizzato Alberto Prisco, che ha curato tutto l'assieme delle cose, quindi ha curato anche la trasmissione di stasera. Infatti, grazie a lui che siamo qui. Alberto. Grazie. Allora, Agostino, sentiamo questo pezzo, così facciamo riposare i nostri artisti. Ok. Bye. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, questo ve lo devo leggere però, oddio, perché sì, aiuto. Ve lo leggo così com'è, giuro. Di solito la musica va dritta al cuore. La musica delle sigle dei cartoni animati, oltre a questo, ne risveglia la parte più innocente. Per questo, quando la ascoltiamo, ritorniamo bambini. Siete grandi. Grazie. Mancavano i violini. Esatto. Qui ci sono i nostri ascoltatori. Ciao Roberto. Ne approfitto per salutare anche Martina e Gianluca, che ci stanno ascoltando dalla provincia di Mantova. Però. Addirittura. Quindi. No, credo comunque che colpisca, cioè che sia il motivo per cui noi adulti, insomma, adulto io non... adulti! Tu sei ancora bambino, non sei adulto. Esatto, per quello colpisce. Sei un putto, cioè, ancora, guarda. Perché va dritta al cuore, all'innocenza, per cui magari uno a 30 anni, insomma, si sveglia un pochino, per quello forse piace a tutti. Certo, ma io credo che poi i ragazzi di oggi non è che amino poi tantissimo queste cose qui, insomma, amano altri cartoni animati. Sì, magari quelli più recenti, più perché ogni generazione ha i suoi, credo. Certo. Ma sta a noi tirarli su bene. Esatto. Giusto, giustamente. Ho visto anche tanti ragazzini ai concerti infatti, dei miei amici qua. C'erano, esatto. Sì, c'è un po' di tutte le età, la maggior parte, 30 anni. E mi domandavo, ma questi là, come fanno a conoscere questi brani? Perché circolano ancora, girano ancora, certo, poi il brano nuovo chiama quello vecchio, certo, e via discorrendo. Vedervi parlare tutti seri con questi capelli fa un po' senso. Sono serio, come no? Che è stata, di chi è stata l'idea di fare un gruppo così che facesse questa musica? Beh, tutto è nato da due nostri amici, Marco e Dario. Li salutiamo. Certo, con molto affetto. E che erano batterista e bassista, avevano iniziato con un gruppo, facendo un gruppo cover cartoni animati. Poi hanno trovato me e un altro ragazzo, Andrea, a fare cantanti. Dopodiché cercavamo un chitarrista bravo, abbiamo trovato Cristiano. E un po' alla volta ci siamo composti fino a trovare la tastiera con Jason, Matteo. Perché proprio un chitarrista metal? Perché era un po' più power per quanto riguarda il cartone animato, no? Veniva un po' più violenta la cosa. Beh, sei stato ai nostri concerti, dovresti ricordarteli, no? Sì, perché poi più o meno ogni cartoon cover band prende un po' uno stile, no? Certo, certo. Il nostro, grazie a me o a causa, non so quello che è. Era metallaro. Era metallaro. Io vengo proprio da quella scuola. È metallaro. Quello degli anni 80 proprio. È metallaro. E quindi il gruppo magari giustamente pesca un determinato stile, e poi in base ai vari musicisti ci sono altri vari cover band, che c'è chi le rivisita in maniera ska, chi le rivisita un po' più funky, chi le fa originale. Insomma, ognuno ci mette le sue. Quello è il bello di suonare queste sigle, perché le impari e poi le riarrangi un po' come vuoi tu, quindi certo, il musicista ha abbastanza spazio dentro. Ma è bello, è una cosa positiva. È stata una bella idea comunque, una bella idea quella uno di fare spasso, anche perché non hai paura di dissacrare qualcosa di certo. No, poi durante le prove partivano con Metallica, Pantera, però questo però è un dettaglio, la linea melodica fuori ogni tanto veniva fuori lo stesso dopo. Cioè, sì, ci metti lo stacchetto, ma chiaramente di certo avevate poca concorrenza comunque. Insomma, non credere. Nel Veneto ci sono due gruppi molto forti, sì? La mente di Tetsuya e i Freeway, che sono veramente in gamba. È un mondo che non conosco. Sono molto bravi. La mente di Tetsuya io li ho sentiti, sì, esattamente, sono molto famosi. Sì, decisamente. E mentre invece che non si dice i Freeway sono, la maggior parte sono di Padova e certo, sono veramente belli, suonano anche a Milano, quindi sì. Bene. È un mondo che noi non conosciamo. Noi suoniamo il Radio Veneto, quindi ma in tutta Italia ci sono giustamente, in tutta Italia ci sono un sacco, certo, di cartoon cover band. Tra l'altro con loro, con tutte le cover band abbiamo fatto un progetto l'anno scorso ancora. Abbiamo fatto praticamente una canzone per gruppo, poi le abbiamo riunite, abbiamo fatto una specie di We Are The World con la canzone del libro Cuore. Il ricavato della vendita di questo CD, di tutte le cover band, è stato devoluto all'ospedale Meyer, mi pare che si chiami, di Firenze, che è un ospedale pediatrico. Pediatrico, sì. Sì, esatto. E insomma è stata anche una bella idea, certamente, riunirci tutti insieme così e fare questa bella cosa. È stata un'ottima idea. Sì, sì. Ritornando al famoso Coltrake che abbiamo sentito prima, parlavamo con i musicisti, con gli artisti, con i chitarristi elettrici ed acustici stasera, che questo pezzo, che è del 1978, ricordiamo, nel 78, quindi un po' di anni fa, ed era la sigla, la seconda serie di UFO Atlas Robot, era la sigla della seconda serie, avevo un andazzo musicalmente parlando, un andazzo così, sì, un ritrovamento alla disco music. Molto vicino alla disco, perché all'epoca era proprio il momento ideale. Esatto, 78. Ogni, se fai caso, ogni, ci sono diciamo una decina di, tra virgolette, gruppi grossi, certo, che all'epoca facevano le sigle. Ognuno, in base al proprio stile, magari anche allo stile musicale che andava, faceva le canzoni. Infatti c'è chi le ha fatte più funky, Goldrick più dance, perché più dance, forse l'artista, certo, prediligeva quella musica lì. Chiaro. Eh sì, essendo musicisti, cartone animato no, è come fosse una canzone vera e propria, anche, certo, se l'hanno usata come colonna sonora. Chiaramente, sì. Beh, ricordiamo che la Cristina D'Avena sono 20 anni o 30 anni che ci campa con ci campa i cartoni, sì, animati, esatto, esatto. Ci campa anche bene, ci campa anche bene, perché tuttora è una delle poche, certo, dell'epoca ancora in giro che, esatto, io sappia, sì, poi perché noi non sappiamo le vendite della Cristina D'Avena, ma non sono assolutamente così basse come si pensa. Ha fatto 5 milioni di Fivelandia, esatto, 64. Fivelandia, bene o male, cioè ci campa, lei ha sempre detto che si diverte nonostante tutto. Beh, garantisco che comunque anche sentire un suo concerto è bello. Cioè, io non pensavo fosse così brava, però invece ha trascinato molto a Luca Comics, e ho sentito un suo concerto, è stato veramente molto bello. Ah, vedi, cosa molto positiva. Quindi questo, abbiamo sentito una sigla del 1978. Adesso Agostino ha in mente di farsi un'altra sigla. Sì, io vi spiazzo perché parlavi di UFO Robot. Mm. Ce l'ho. Bene, ok. L'ascoltiamo? Bene, ascoltiamo. Certamente. Eh già, è Blu Radio Veneto questa è la voce di Agostino e con Maurizio abbiamo, ve lo ricordo, abbiamo Raffaele, abbiamo Cristiano, abbiamo Arianna e abbiamo Valentina, questi quattro amici che sono venuti a trovarci per stare con noi, con voi, anzi meglio, e a raccontarci le storie di questi cartoni animati che tanto ci hanno tenuto compagnia negli anni della nostra infanzia, come diceva giustamente Roberto, la musica che va diritta al cuore, la musica delle sigle dei cartoni arriva appunto al cuore. Dobbiamo dire una cosa, forse gli ascoltatori non lo sanno, sono 3 mesi che ci pensiamo a fare sta roba. Sì, sì, è vero, è vero. 3 mesi fa abbiamo avuto questa idea, io ed Agostino abbiamo detto facciamola, che è la prima volta in assoluto, perché è bello, è positivo, è giovedì di festa, giovedì di carnevale stasera, anche se fa un po' freddo fuori, ma noi ci stiamo scaldando. Infatti forse sembrava la vigilia di Natale. Siamo tornati indietro di qualche mese, nel giro di una settimana. Esattamente, nevicava stamattina, però ci stiamo scaldando, è bello, è positivo. Sì, sì, sì, sì, divertente. Devo fare una precisazione, giustamente, perché poi sono altrimenti si arrabbiano, non sono di Mantova, ma della provincia di Verona. Grazie. Attenzione. Ai. Chiedo scusa a Gianluca e a Martina, insomma. Abbiamo sentito UFO Robot, che è il pezzo più famoso assieme a Candy, la sigla più famosa. C'è un risvolto, lo sai chi era i cori di questo pezzo? Fabio Concato. Vedi che tutto torna. L'arrangiamento è di Vince Tempera, il pezzo di Vince Tempera, di Luigi Albertelli, che ha scritto tanti pezzi famosi, e di Ares Tavolazzi era uno degli Area, un grandissimo musicista, e ha composto questo pezzo. Ai cori c'era Fabio Concato. Vedi che le cose... È musica seria per musicisti seri. È musica seria, un grande pezzo, un successone incredibile, è del 1978. Con questo pezzo la Rai ha inaugurato i cartoni animati giapponesi. Io avevo un anno nel 1978. Avevi un anno. Però te lo ricordi, adesso lo sai, lo conosci. Noi qualcuno di più. Io dovevo ancora nascere. Non so quanti si possono ricordare alla Rai... La trasmissione presentata, io adesso non voglio fare troppo sforzo mentale, ma c'era il quartetto Cetra che presentava la trasmissione in cui trasmettevano Goldrake. Sì. Rendetevi conto quanti anni ha Raffaele. Ma sei vecchio! Però è un grande pezzo, si può dire. Si sente ancora piacevolmente, non ha stancato. No. Non è vecchio, vecchio solo di... Di età, ma non età, è però musicalmente attuale, è ancora attuale, fresco, è vivissimo, certamente. Sì, sì. Io vorrei dire una cosa, Maurizio, per tornare al discorso di prima, non per fare, come dico io sempre, il pavone, ma credo che non so quante radio questa sera o nelle prossime serate facciano una trasmissione del genere. Siamo veramente noi. Cerchiamo veramente queste chicche, no? Queste cose un po' diverse. Sì. Valentina lo sa perché già un'altra volta è venuta con il con i ragazzi della Natale. Abbiamo fatto una serata a 3 ore in diretta. Però loro non avevano la parrucca blu in onore della radio. Ma tu sei questo, ecco, noi siamo venute in blu in onore del nome della radio. E comunque, con la ricrescita. Anche tu. La potete vedere anche in fotografia. Se volete, basta che andate su Facebook. C'è. Di già? Sì. Aiuto. La tecnologia ci distrugge. Quindi ancora grazie a voi per aver accettato questa invito. Posso fare solo un ringraziamento? Perché grazie a te e a questa occasione io ho potuto cantare nuovamente con la mia amica Arianna, che conosco da tantissimo. È stata una delle prime persone con cui ho cantato nel coretto della chiesa, che poi è diventato il mio primo coro gospel. Si parla di quasi 20 anni fa. Ti svelo un segreto, Arianna, che mi ha detto lei. Quando ci siamo sentiti io e Valentina, mi ha detto: guarda, c'ho un'amica che devo sentire. E mi fa: però incrociamo le dita che non sei impegnata. No, beh, figurati, per queste cose qua, anche se ero impegnata. Ci teneva veramente tantissimo sì, che sì. ci fosse. Ma al tempo, cioè, il nostro coro era troppo grande. Ci divertivamo un sacco, facciamo le canzoni di Sister Act e era bello. Sì, è stato veramente un bellissimo momento. E le facevamo anche durante la messa. Chi è che faceva Suor Maria Claretta? Ma in teoria la voce era la mia di Suor Maria Claretta. Però... Vabbè. Vuoi che ascoltiamo? Se volete ascoltare il pezzo di cui parlavo sì, prima, sì, Libro Cuore, fatto alla We Are the World, da tutte le cartoon cover band italiane, praticamente da una buona parte delle cartoon cover band italiane, appunto per il progetto che dicevo prima, che il cui ricavato della vendita è andato all'ospedale Meyer di Firenze, ospedale pediatrico. E appunto proporrei quella canzone lì in quanto Libro Cuore, in quanto potesse essere cantata da varie voci di tutte le varie cover band. Ascoltiamo. Ricordo ancora il primo giorno a scuola. Le vite i pennarelli blu. Che lontano quel tempo come vola, verdi giorni che non tornan più. Quanti giorni su quei neri banchi, quanti sogni non ricordo più, ma un pensiero assopito si fa avanti. Il tamburino sardo corre senza aver paura, alto tiene il suo stendardo, messaggero di ventura. Va a parte il bastimento, Genova è ormai lontana, Marco va nel nuovo mondo, terra sudamericana. Oh caro vecchio libro cuore, con la tua semplicità scrivano fiorentino, nel profondo della notte, scrive sotto un lumicino, cento e mille più fascette, la vedetta in alto sale, grande premio il suo valore, fiori getta all'ufficiale, copre tutto un tricolore. Oh caro vecchio libro cuore, con la tua semplicità, Radio Sera. Blu Radio Sera. Agostino Spolaore e Maurizio Calzavara con voi fino alle 22.30, sono le 21.47 di questo giovedì 3 marzo 2011. State ascoltando questa trasmissione dedicata ai cartoni animati, perché abbiamo scelto volutamente di fare questo tipo di trasmissione per, come dicevo prima, per festeggiare il carnevale di quest'anno. Insomma. Oh, poi ancora, mi hanno richiesto se potete fare Occhi di Gatto. 30 secondi, ce l'hai? Sì. Ce l'avete? 30 secondi, da un flash. È per Martina. Con la chitarra, volete, te la ricordi? Te la ricordi? Facciamo tra 10 minuti che la ripasso. Che la ripassi un po'. Okay. Portate pazienza, la ripasso in uno stacchetto e poi la proviamo. Ok, poi c'è un saluto da Marisa, dalla zona di Firenze, dalla Toscana. Ciao Marisa! E poi ancora Nadia, invece, ci sta ascoltando da Roma. Anche da Roma, Roma. Ah, oh. Complimenti. Casa, ecco, tua? Lo streaming, arriviamo, no, tutto il mondo. No, perché io sono romana. Tu sei romana? Da quando qua? Io sono nata a Roma e vissuta a Roma. Ah sì? Ah, sì. Sì. Questa è nuova. Ma senti come parlo? Ah sì. Stavo mica scherzando. Ah, oh. Ah, che mi fai un Romeo allora? Fammi un Romeo, il meglio del Colosseo. Meglio Gatto al Colosseo. Io sono Romeo. Allora, dimmi allora cosa... Sì, adesso hanno deciso i ragazzi di fare praticamente il pezzo che abbiamo sentito prima. Scusate, però con la parrucca non ci vedo assolutamente niente. È un po' di capello. Infatti, come ti capisco? Magari se la tiri un po' indietro. Ecco, esatto. Mi stavo domandando come facesse Jimi Hendrix a mettere le cuffie. È vero, hai ragione. No, hanno deciso di fare il pezzo che abbiamo sentito qualche secondo fa dal vivo. Esatto. In questo momento, qua da noi. Siete pronti? Pronti. Ok. Avanti. È quel libro che leggi ora tu. Il tamburino sacro corre senza aver paura, alto tiene il suo strillato, messaggero di ventura. Va a parte il bastimento, Genova è ormai lontana, ma copa nel nuovo mondo. Terra sudamericana, oh caro vecchio libro, cuore con la tua semplicità, continua a far sognare i ragazzi d'ogni età, mio vecchio libro cuore, mai nel tempo scorderò le pagine d'amore, forse fuori moda un po', ma ieri ho visto il mio ragazzo che toglieva un po' di polvere da te. In castigo dietro alla lavagna, quante macchie con l'inchiostro blu, con la mente che naviga e sogna su quel libro che leggi ora tu. Lo scrivano fiorentino nel profondo della notte, scrive sotto un lumicino cento e mille più fascette. La vedetta in alto sale, grande premio al suo valore, fiori getta all'ufficiale, copre tutto un tricolore. Oh caro vecchio libro cuore, con la tua semplicità continui a far sognare i ragazzi d'ogni età, mio vecchio libro cuore, mai nel tempo scorderò le pagine d'amore. Che dolcezza. Mi viene quasi da piangere. Sì. A proposito. E vai con l'Oktoberfest. Mamma mia. Ah, sì. Heidi. Monti, Heidi, eri Com'è, com'era il ballo tirolese? E poi dopo gli schiaffi, no? Esatto. Questa è mitica, eh. Ormai questa... stiamo andando noi qua. Questa è un pezzo. Io impazzivo per le pagnottine di Heidi e il formaggio bianco e lucido. Fenomenale. Questa era Elisabetta Viviani, parlavamo prima di Cristina D'Avena, certo. C'era anche lei come... Qualche anno prima, insomma. Abbiamo fatto assolutamente dal vivo, le ragazze hanno doppiato Elisabetta Viviani, esatto, mentre Elisabetta cantava. Esatto, è una cosa molto... Non è mica facile, è molto difficile. Anche perché ha una voce tutta particolare. Esattamente. Tutta... Bella, è vero, è vero. Blu Radio Veneto con Agostino e Maurizio, vi ricordo le nostre frequenze 88 700 e 94 600 MHz, il nostro sito www.bluradioveneto.it, il nostro numero telefonico in studio è lo 049 875 6423. Le telecamere ve lo dico, ma tanto siete pieni, se no, ce ne sono veramente tantissimi di persone che vi stanno vedendo. Allora vi ricordo, diretta rockway.tk, streaming video, oppure collegandovi nel sito della radio www.bluradioveneto.it, nella recensione dedicata a questi quattro amici e a questo programma c'è scritto streaming video e lì cliccando lì arriverete direttamente a vedere queste due ragazze con la parrucca blu. E blu, poi blu, c'è blu. Abbiamo una bionda e un ecco che mi offendo e un moro. Lo streaming audio lo sapete, basta collegarvi nel sito www.bluradioveneto.it, c'è questo rettangolino rosa, c'è la freccia nera e lì cliccate e sentite questa trasmissione rosa come la parrucca, come la parrucca di Maurizio, giustamente sì. Purtroppo sei bellissimo stasera, sì, Maurizio, esatto. Lasciamo perdere il bellissimo e torniamo musicalmente, ragazzi. Qual è il pezzo secondo voi più importante dal punto di vista dell'arrangiamento dei cartoni animati che vi ricordate? Festa alla corte di Francia. Cosa è stato un po' di... potevamo resistere. Più importante, cosa intendi più importante? Cioè più significativo al di là di tutto, al di là delle canzoncine. Ma a livello musicale? A livello musicale, cosa pensi? È importante questa domanda. L'importanza comunque... Cioè, quello di Tom Sire non era mica... era importante. Ma lì c'era più che altro già il gruppo chiamandosi Louisiana Group. Sì. Credo avesse già la passione del New Orleans, del blues, del sud americano, dell'America, degli Stati Uniti, insomma. Stati Uniti. La Louisiana. Quello là. E... potrei dire che quello di Willy Fogg, il giro del mondo di Willy Fogg, è un arrangiamento un po' complesso, strano, perché modula, insomma, va sempre più su. Grazie a chi l'ha scritto, diciamo. Vabbè, immagino. Però quello, però l'importanza di un arrangiamento, poi, cioè di una canzone, ognuno ha la sua, hai capito? Certo, quella è importante per me, lui ha la sua. Sbaglio, si sta parlando di autori di un certo calibro in quel brano. Sì, certamente. Sì. Però dobbiamo tenere conto che l'arrangiamento si doveva però essere fruibile da un pubblico abbastanza giovane, molto giovane praticamente. Eppure, credimi, non si trovano brani scadenti. Con arrangiamenti non si possano definire molto curati. Io stavo pensando, quando mi hai fatto la domanda, stavo pensando a uno dei pezzi che secondo me è più... mi ha sempre lasciato perplesso per la sua, secondo me, bellezza dell'arrangiamento, e ti parlo della sigla di Capitan Harlock. Ah sì, che adesso però mi sfugge Capitan Harlock, chi la suonava, sì. Mi sfugge una. Ecco, vedi, questo Ago, brano è preciso, perfetto. Bravo. Si chiamano La Banda dei Bucanieri. Esatto, la banda dei Bucanieri. Questo brano secondo me è incredibile dal punto di vista musicale. Ma secondo me è bello anche il lato B del disco, c'è la sigla finale, Corsari delle Stelle. Anche quello, infatti sono due pezzi veramente incredibili, musicalmente parlando. Sei formatissima. Ah sì è. Ti portavo qualcuno, io ti ho portato la crema. Giusto, hai portato la crema, cioè, sa tutto. Ragazzi. Ok, 21:58 quasi. Agostino, facciamoli suonare adesso e cantare. Come volete voi, per me è lo stesso. Se mi dite una canzone... Cosa c'è nella scaletta? Andiamo passo storico. Canzone di Riccardo Zara, I Cavalieri del Re. Wow. Famoso Riccardo Zara, eh. Sì, è. Successone con questo pezzo. Un grande uomo anche lui, sì. Abbiamo deciso di fare La Spada di King Arthur. Una canzone semplice, proprio. Sì. E già che siamo agitate, verrà sicuramente uno splendore. Verrà molto bene, per il feeling serve. Incita. Anche questi pezzi comunque sono di un certo livello. Sì. Certo, certo. E infatti così, un po' unplugged. Blu Radio Veneto, è come non l'hai mai sentito. (Susurra) gran castello nella contea di Camelot, con mille più scudieri al servizio di un grande re. Dal sangue vai Arturo va, vai Arturo va, vai Arturo va. Tutti i cavalieri della tavola rotonda giurano solenni eterna fedeltà a sua maestà. Vai Arturo va, vai Arturo va, con la sacra spada mette tutti in fuga, nessuno mai lo vincerà. Anche Lancillotto, curvo più di un gatto, mai con lui si batterà. Nobile di cuore, puro di pensieri, il sole non tramonta più alla corte del grande re Artù. Re Artù di Camelot con la corona in testa, i cavalieri neri dalla Britannia caccerà. Arturo va, vai Arturo va, Arturo va. Vai Arturo, mago Merlino dall'alto della torre, con polverine magiche il re aiuterà e sua maestà. Vai Arturo va, poi vincerà. Con la sacra spada mette tutti in fuga, nessuno mai lo vincerà. Anche Lancillotto, furbo più di un gatto, mai con lui si batterà. Nobile di cuore, puro di pensieri, il sole non tramonta più alla corte del grande re Artù. Li stiamo ripercorrendo tutti, Maurizio. Eh sì, tutto dal vivo, tutto dal vivo. Loro non si erano accorti che abbiamo messo subito il pezzo in sottofondo. Ok, prima abbiamo sentito I Cavalieri del Re, un pezzo molto difficile, secondo me, fatto molto bene da parte vostra, molto difficile, cantato da... Qualche inceppettino, no, diciamo che c'è. Ma il bello della diretta, la facciamo anche apposta. Difficile, se non sono comportate benissimo. Le voci non tremavano, le chitarre perfette. Allora, insomma, è passabile, passabile, abbiate pazienza, ma sapete com'è? Sapete com'è? Bello della diretta. All'originale era cantato da Riccardo Zara e sua moglie Clara. Esatto, Serina, sì. Esattamente. E questa sera avete... Eccola qua. Lady dal fiocco blu, Lady, Lady, Lady Oscar, tutti fanno festa quando passi tu. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, come il moschettiere batterti sei tu. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, le grandi dame a corte ti invidiano perché. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, anche nel duello che eleganza c'è. Oh Lady, Lady, Lady, Lady, oh lady, lady, lady, lady. Hai visto? Brave, che brave. È un jukebox vivente il nostro stasera. Un jukebox vivente, assolutamente. Io non so voi, ma io mi sto divertendo veramente un sacco questa sera. Oddio, c'è un po' di strizzo. Ma loro non sanno, no, no. Vedi? È bello perché loro non sanno che noi giochiamo su ste robe. È tutto... Cattivo. cattivi. Infatti tra un po' tu resti senza parola. Non, non c'era nessun accordo prima, cari ascoltatori, c'era nessun accordo prima. A lei. Alla Stevie Wonder. Alla Stevie Wonder. Vincere tu sai. La conoscete tutta proprio? Ah, sì, io mi identificavo molto con questo cartone. Ma sì? Ma è un cartone animato che ti piaceva tanto, sì. Oscar. E poi qual era l'altro? Jig e Goldrake. Ah, quelli mitici, insomma, sì. Quelli più. Sì. A te invece. Ma ce ne sono un sacco. Ma se devo. Il personaggio maschile dei cartoni animati che preferivo era Marin di Baldios, che però è un robot che non tutti conoscono. E però poi come cartone animato non è vero, non è vero, testimone Raffa, no, l'hanno trasmesso insieme. Poco però fondamentale, mamma mia, un cartone animato fondamentale, anche perché è l'unico che finisce male. È una storia, non sto scherzando. Anche Teccame non è che fosse bellissimo, tutta questa sì. Allegria, però bello. No, beh, bello sì, io anche trovo Lupin comunque anche Diablon era mitico, mitico. Come Lupin. Dicevamo prima, se i cartoni animati devono stare al nell'equazione alle favole, anche le trame spesso rispecchiano, che ne so, parliamo di Cappuccetto Rosso, cioè Hansel e Gretel, cioè ci sono delle favole con dei lati oscuri, lati oscuri, anzi probabilmente tutte, quindi molte favole dark, quindi molto dark. Il discorso della strega cattiva di Biancaneve, cioè lì sì, però, la bella addormentata era morta. Io invece amavo la dolcezza, no, sai che a me piace la musica soft, e quindi io amavo Il bambino più sfortunato del mondo. Questo fa venire un po' caldo. Piccolo come sei, per il mondo tu fai. C'è da tenere presente una cosa, però. Io ho il vinile di questo. Ah. Vinile e libro. E la mia mamma mi trovava che piangevo, avevo 4 anni, davanti alla televisione. Ma, certo. Io invece avevo la Disney, quindi avevo Topolino, avevo i Looney Tunes, poi tra l'altro la Warner Bros. Anche? Con Willy Coyote era. È un altro filone. Sì, però io tenevo un po' per Willy Coyote, mi sono stufato. Sto struzzo. E poi, sai cosa? Mi era sempre piaciuto un cartone animato che non sono mai poi riuscito più a trovare. Non so se ve lo ricordate, non mi ricordo il titolo. Era quel cane che faceva sempre da custode a un gregge di pecore. E c'era il gatto che tentava, il lupo, di portarle via. Lui era davanti a questo orologio con i capelli. Con la frangia rossa, praticamente. Con i capelli sugli occhi. Al lupo! Al lupo! Sì, sì. Non me lo ricordo il titolo. Il titolo non me lo ricordo neanch'io, però mi ricordo il cartone, sì. Sì, ecco, se magari qualcuno all'ascolto lo sa, a questo punto poi sicuramente il titolo. Se c'è qualcuno delle CCB, sicuramente scrivono. Esatto. E poi c'era Arriba Arriba, Speedy Gonzales. Andale, andale. Andale. Ernesto Paralesso, non te lo ricordi, sì. Con Baba Lui, bellissimi. Ce n'erano. Maurizio, te cosa ti ricordi? No, mi ricordo assolutamente. Lui leggeva molto. Volevo farti una considerazione puramente numerica. Io qui mi sono portato il mio lettore MP3 con all'interno tutte le sigle dei cartoni. Stiamo parlando sempre del filone cartoni animati giapponesi. Non ci avevo mai fatto caso, ma ce ne sono soltanto qui, e non sono tutte, 337. Pensa un po'. Di cartoni animati diversi. Fai due conti. Esattamente, una cosa incredibile. Ma, volete che facciamo ascoltare qualcosa anche dall'ultimo, tipo, che ne so, Naruto o qualcosa del genere? Se chi ha l'ascolto magari sono anche piccini, allora. Sì, è una sigla più recente, però è abbastanza carina comunque. Non so chi l'ha scritta. Perché il gruppo che la canta, che mi pare siano i Cartoni in faccia, hanno vinto Lucca Comics 2 anni fa, ecco. Come cover band, sì. È una meta abbastanza ambita dalle cover band Lucca, il palco di Lucca. La manifestazione è enorme, certo. Cioè, tanti anni che la fanno. Io sono andato una volta solo e una cosa merita parecchio. Volete che la facciamo ascoltare, così rendiamo omaggio anche ai fanciulli di adesso, insomma. Certo. Grazie. Allora, questa è Naruto con il gruppo chiamato Cartoni in faccia. Naruto, Naruto, io credo in me, nel cuore mio, Naruto. anni miei, che ormai sono 12, diventerai quel che già sei. E fra ombre e luci, io credo in me, nel cuore mio, che non ha radici. Io credo in me e dico addio ai miei giorni grigi, con un raggio che ha il coraggio di lasciarsi il sole dietro sé. Io credo in me, nel cuore mio, e al dolore dico addio. Sentiamo simili, ma le del vice dei sogni miei, e sa cura e prima o poi asciugherò quegli occhi suoi, coi miei primi baci. Io credo in me, nel cuore mio, che non ha radici. Io credo in me e dico addio ai miei giorni grigi, con coraggio. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Undici, avete visto come passa velocemente il tempo? Stiamo scherzando, ridendo con questa musica, ma è dalla simpatia di questi quattro amici che sono venuti a trovarci: Raffaele, Cristiano, Arianna e Valentina, che sono venuti a trovarci questa sera eccezionalmente proprio per regalarci questa serata così dedicata al carnevale. Blu Radio Veneto vi regala anche queste soddisfazioni, queste belle cose, almeno sono iniziative che, come dicevo prima, non tutti lo fanno, ci vuole coraggio, siamo un po' pazzi, ma insomma siamo a carnevale, giusto anche che sia così. Vi ricordo sempre le webcam, ma siete tantissimi stasera, vi stanno vedendo in una maniera veramente incredibile. Allora, diretta rockway.tk, se qualcuno vuol vedere questi ragazzi con la parrucca, c'è anche Maurizio con la parrucca rossa. Sì, lo so, ci sono anche... Fucsia. Quindi potete sbizzare... lui con le orecchie... Non si vede. Ma loro non lo vedono. Ma domani andiamo a Facebook, ci sarai anche tu. Verrà il giorno. Non è che se le stacco e la giro... No. Allora, 22.12, dicevo, cosa ci proponete? Non avevate richiesto il pezzettino di Occhi, sì, di Gatto? La Martina. Ma proprio una piccola strofa perché... Perché non me la ricordo tantissimo. Comunque ci tiene a precisare che a Rimino fanno ancora la mattina, mi ha detto. Grandissimo. Vedi? Allora, Martina, questa è per te, l'hai richiesta, facciamo ascoltare un pezzettino, fanno loro ascoltare un pezzettino di Occhi di Gatto. Tre sorelle furbissime, son tre ladre abilissime, molto sveglie, agilissime, con astuzia e perizia, ed unendo sempre un poco di furbizia, riescono sempre a fuggire e nel nulla sparire. L'ho detto che era piccolino il pezzo. Oh, oh, oh, occhi di gatto, oh, oh, oh, occhi di gatto. È questo il nome del trio compatto. Sono tre sorelle che hanno fatto un patto. Oh, oh, oh, occhi di gatto. Oh, oh, oh, occhi di gatto. ecco ha colpito la di soppiatto, unendo poi con un agile scatto, occhi di gatto, un altro colpo è stato fatto! Wow, bravissime. Sbagliato anche una parola. Io non servivo a niente praticamente. Cioè, hanno fatto a cappella, va bene. A cappella, bravissime. Poi ci chiamavano i neri per caso. Esatto, le blu per caso. Le blu per caso. Le blu per caso. Ok. Così non vale, però. Non vale? Non vale. Io sono Sheila. La facciamo dopo? O la facciamo su? No. Facciamo adesso. È vostra, è vostra, è vostra. All'avventura lui è. Di chi pensavi fosse? Oh, adesso si commuove, ragazzi. Non mi ha riconosciuto come chitarrista. Non mi ha riconosciuto. Pensa un po'. Questi sono proprio loro in una incisione che hanno fatto su questo disco, praticamente. Esatto, la lacrimuccia. Sono gli Uatà proprio, questi sono proprio loro. Un po' di nostalgia. Un po' di nostalgia. La tua voce, la voce di Cristiano. Il basso di Dario. No, la chitarra. No. Ah, solo tu non canti? No, io no, meglio di no. Ma come la faccio? Suono la chitarra ed è già abbastanza. Il basso di Dario, la batteria di Marco, la voce di Andrea, la tastiera di Jason. Vecchi tempi. Sì. Beh, li abbiamo ricordati. Incorreggibile, Lupin, Lupin, inafferrabile, Lupin, Lupin, ineguagliabile, sempre all'avventura tu vai. Sei forza, Lupin. Maurizio! Bellissimo. Io i cartoni animati di Lupin non li ho mai visti, per i miei figli sì, e adesso li ricordo. Beh, questa è una sigla anche recente, delle ultime, diciamo. All'epoca c'era quella con la fisarmonica, non so se ricordate. Sì, certo. Era quella finale, esatto. Questa qui, Lupin, quando aveva la giacca, credo, perché ogni serie cambiava la giacca diversa. Era il vestito, il primo già era bianco, adesso era verde, adesso com'è? Doveva essere rosa. No, rossa, con la camicia blu e la cravatta gialla, ecco, per piacere. Cioè, tanto per precisare, giusto un po', non l'ha mai visto, secondo me. E i pantaloni bianchi. E questa era la sigla delle ultime. Una delle ultime, esattamente. Infatti il suono un po' più moderno, si certo, sente. Certo, è vero, hai detto, hai... Beh, era bellissima quella fatta tipo liscio. Questo è il Super Gulp. Giumbolo. Mi chiamo Giumbolo questo. Mi chiamo Giumbolo. Giumbolo. No, questo non te la ricordo. Sono Giumbolo, troppo giovane. Cosa vorresti dire? Cosa ci fate? Adesso ci fate ascoltare qualcosa voi. Esattamente. Sì. Cosa ci fate ascoltare? Una canzone molto dolce. Sì. Tratta dal cartone animato Conan, ragazzo del futuro. Wow. Conan, bellissima. Cosa ci fai ascoltare? Proprio la canzone. La canzone, di la sigla. Sigla. Ok. Cantata da? Giorgia Lepore. Bravissima. La indovino con una. Città in quell'isola laggiù, c'era una via che passava di là proprio dove vivi tu, c'era allegria, c'era felicità, alla guerra una follia, ma se qualcuno sorride a te un domani ancora c'è. Dai Conan, tutto deve ricominciare. Dai Conan, mettici tanto amore, più che puoi. Dai Conan, ora stringiti forte a lana. Dai Conan, bella non c'è nessuna come lei. Salta i pericoli, vola tra gli alberi, corri insieme a noi. Oltre gli ostacoli, per tutti gli uomini liberi. Contro i nemici non perderti, non fermarti mai. Ci sono i buoni sei tu per un'amicizia in più. C'è sempre l'Ana vicino a te che ti fa sentire un re. Ci sono i sogni, tutti quelli che fai, che non moriranno mai. C'è la speranza che d'ora in poi un futuro avremo noi. Dai Conan, sulla terra c'è ancora il sole. Dai Conan, tenero come un fiore, crescerai. Dai Conan, questo mondo si può salvare. Dai Conan, tuffati in mezzo al mare e poi vai. Salta i pericoli, vola tra gli alberi, corri, corri. Oltre gli ostacoli, per tutti gli uomini liberi. Contro i nemici non perderti, non fermarti. Salta i pericoli, vola tra gli alberi, corri, corri. Oltre gli ostacoli, per tutti gli uomini liberi. Contro i nemici non perderti, non fermarti. Salta i pericoli, vola tra gli alberi, corri, corri. Oltre gli ostacoli, per tutti gli uomini liberi. Contro i nemici non perderti, non fermarti mai. Un momento quasi epico, Conan. Cosa dite? Il ma... testo di questa canzone è bellissimo, è molto attuale. Sì, esattamente. Anche un po' purtroppo molto attuale. Sì, decisamente. Un po'... A quel... Visto che siete caldi, facciamo un'altra... Sì, subito. Via, via, via. 22:21, passiamo... assolutamente in diretta a Blu Radio Sera, carnevale di Blu Radio Sera stasera. Con i cartoni carnevale animati. Ogni scherzo vale, tac, subito Ago ti spara, fatene un'altra, va bene. Lo specchio magico, questo per le bambine, perché era un cartone animato che guardavano di più le bambine. Facciamo uno? Sì. Come fate voi? Con la voce? No, facciamo un bel parapetto. Adesso c'è una critica. Siccome sono state un po' messi in piedi rapidamente, ci mettiamo un po' d'accordo. Live sicuramente. Esatto. È una bimba come te, con tanti sogni racchiusi in sé. Mentre danza la sua stanza diventa il palazzo del re. Stilli ancora non lo sa, ma un sogno può diventare realtà. Non è facile né difficile, forse semplice sarà. Prendi lo specchio magico, fragile, mitologico, simbolo di bellezza e di vanità. Ogni tuo sogno segreto con lui diverrà realtà. Prendi lo specchio magico, anche se sembra illogico, ogni tuo desiderio s'avvererà. Se specchierai lui l'amore fedele ti servirà. Incantini vederà la vecchia storia mai senza età, l'ambiziosa vanità ad appannare lo specchio riuscirà. Incantesimo, magia, stili ritrova la verità. Guarda dentro se tutto è facile, con l'amore e la bontà. Prendi lo specchio magico, fragile, mitologico, simbolo di bellezza e di vanità. Ogni tuo sogno segreto con lui diverrà realtà. Prendi lo specchio magico, anche se sembra illogico, ogni tuo desiderio s'avvererà. Se specchierai in lui l'amore fedele ti servirà. Uno per tre, difendiamo la terra dall'ombra della guerra, il nostro cuore batterà per la libertà. Gli intrighi e gli schifiani dei mostri disumani, il nostro braccio spazzerà nell'immensità. Dai can, dai can, arriva già il nemico, scatta, ma tu ci sei amico, dai can. E viva Daitan 3! Daitan, Daitan, per noi tu sei davvero forte, per noi tu sei davvero grande. E viva Daitan 3! È bellissimo, io mi diverto, guarda, peccato se è finita, ma io sentire la canzone cantata poi da sottofondo da voi praticamente, perché si sente benissimo la voce di Arianna e di... Ma Arianna le conosce tutte, sai, tutte! Si sbaglio qualche cosa, comunque... Arianna, ti aspettiamo un'altra volta magari, sì, facciamo, no, se facciamo un bis. Prima di cominci... Solo lei? Solo lei, solo lei, permetterai. Prima dell'inizio dell'estate... prima dell'inizio dell'estate, fine della primavera, ritornate qua. Ben volentieri. Iniziamo l'estate con un'altra puntata di questo genere. Ben volentieri. Sì. Ragazzi, ci dobbiamo salutare perché sono le 22:25. Allora, prima di fare l'ultimo live, giusto? L'ultimo brano, esatto. Fate l'ultimo brano. È arrivato Alberto, dobbiamo lasciare lo spazio a lui per la sua decisamente totalmente diversa musica, cioè musica rock. E... che ci sta sempre bene. Con la sua classifica. Perché fino adesso l'abbiamo fatto, scusa. Esatto. Come tema. Un altro. E io a nome della radio di Blu Radio Veneto vi ringrazio veramente di grazie a voi, grazie di tutto, grazie dell'ospitalità, grazie dell'occasione, mille, della compagnia, di tutto, del divertimento, dell'acqua. No, grazie a voi che siete, ci avete fatto divertire, avete fatto veramente reciproco, insomma, gli spazi di carnevale così. È una cosa meravigliosa. Sono carinissimi. Allora ringraziamo i musicisti prima, certo. Raffaele, grazie, grazie mille, Ago, grazie ancora a Cristiano, grazie a tutti gli ascoltatori. Vai Arturo, che c'era prima presente. Vi aspettiamo ancora. E le due splendide voci. Ciao, ciao, grazie. Grazie a tutti, grazie Ago, Arianna, grazie Martino e Valentina. Amore. E grazie Chiara. Esatto. E grazie, ringraziamo la Chiara con Valentina. Mi ha vestito, ma vestito con la maschera. Esatto, mi ha parruccato. Mi ha parruccato. 5 secondi Valentina, il prossimo concerto Summertime? Ad aprile, il 9 aprile, mi pare al Pollini. Perfetto, mi bastava sapere. Maurizio. Abbiamo finito. Facciamo una hit single, come si chiamava una volta. Un successore incredibile. Questa spacca, eh. Questa spacca. Ah, beh. Allora, prima di salutarci, Maurizio, noi andiamo appuntamento a martedì prossimo. Sì, abbiamo Claudio Valente, un musicista, un cantautore veneto, che presenta un live dalle 10:30 a mezzanotte. Con me, te. Esatto. E prima ci sarà un'intervista fatta da Flavio Bilato con i Susun Corda, è un musicista molto bravo, un cantautore molto bravo, anche sempre telefoniche, per due interviste telefoniche. E dopo avremo il live con Claudio Valente. E quindi cosa ci fate per l'ultima canzone? Una canzone dei Rocking Horse, Master of Puppets. Bella questa. L'hanno fatta anche loro. Ah sì, può essere. Douglas Mickey. Candy comunque. Ah, Candy Candy, sì. Ok, ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao. Grazie a voi. È poesia, Candy, Candy è l'armonia, Candy è la magia, Candy, Candy è simpatia, è zucchero filato, è curiosità, è un mondo di pensieri e libertà, è un fiore delicato, è felicità che a spasso col suo gatto se ne va. Sola non sei, anche nella neve più bianca, più alta che mai. Candy, oh Candy, che sorrisi grandi che fai, che sapore dolce, che occhi puliti che hai. Candy è fantasia, se racconta una bugia, Candy è l'allegria che ci tiene compagnia. È un sogno colorato, è l'ingenuità, è un desiderio che si avvererà. È un cucciolo smarrito nell'immensità, nel bosco e tra le case di città. Candy, oh Candy, nella vita sola non sei, anche nella neve più bianca, più alta che mai. Candy, oh Candy, che sorrisi grandi che fai, che sapore dolce, che occhi puliti che hai. Oh Candy, Candy, ah. Oh Candy, Candy. Spot. Spot.